Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Dodici avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente dell'Aquila e questa mattina scossa di terremoto nel Piacentino. Le polemiche sul servizio di Canale 5 sul giudice Mesiano. Bracchino dice: chiedo scusa e invito il magistrato in trasmissione. Dopo l'attentato contro i Pasdaran, Teheran minaccia rappresaglie contro Stati Uniti e Israele. Documentario shock al Festival del Cinema di Roma, parla del traffico di organi. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano l'inchiesta sul terremoto in Abruzzo. Sono 12 gli avvisi di garanzia relativi al crollo della casa dello studente all'Aquila. Ce ne parla in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo, ci senti? Non siamo in grado in questo momento di collegarci con Vincenzo Miglietta per la notizia che vi dicevamo in apertura, ossia le novità sull'inchiesta sul terremoto in Abruzzo e i 12 avvisi di garanzia relativi al crollo della casa dello studente, ma questa mattina c'è stata una scossa di terremoto nel Piacentino e nel Parmense. Ci colleghiamo in diretta con il sismologo Enzo Boschi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa è successo, Boschi? C'è stata una scossa di magnitudo 3.9, quindi non forte ma tale da essere sentita abbastanza bene dalla gente, quindi ha fatto anche un po' di paura. È una zona questa di cui non abbiamo mai, nella quale non abbiamo mai registrato scosse forti, non abbiamo neanche notizie storiche di scosse forti, quindi è una zona sostanzialmente tranquilla. La scossa di magnitudo 3.9 di stamani è stata preceduta poco prima da una scossa di magnitudo 2.3 e quindi sostanzialmente escluderemo fortissime scosse e continuiamo ovviamente a seguire attentamente quello che succede. Ecco Boschi, nel frattempo naturalmente la Protezione Civile ha fatto sapere, fortunatamente non ci sono danni a persone o cose, ma visto le polemiche che c'erano state anche sul terremoto in Abruzzo, sullo sciame sismico che aveva preceduto la forte scossa, insomma in questo caso siamo in tutt'altra situazione. Sì, l'Abruzzo era ben nota come zona ad altissima pericolosità sismica, come buona parte dell'Italia meridionale, mentre invece questa zona, ripeto, non abbiamo nessun tipo di informazione su scosse forti negli ultimi 1000 anni, quindi possiamo stare tranquilli, insomma. E inoltre la qualità delle costruzioni, la qualità media delle costruzioni dell'Emilia Romagna e della Lombardia è decisamente buona. Grazie al sismologo Enzo Boschi. Adesso invece torniamo sull'inchiesta sul terremoto in Abruzzo. Vincenzo Miglietta, dicevamo di 12 avvisi di garanzia. Sì, buongiorno, è proprio così, omicidio e disastro colposo, queste le accuse formulate dal procuratore della Repubblica dell'Aquila Alfredo Rossini nei 12 avvisi di garanzia relativi al crollo della casa dello studente, casa che resta un po' il simbolo del disastro del 6 aprile, una tragedia annunciata secondo molti studenti che frequentarono la struttura. Gli avvisi di garanzia, comunque spiegato il procuratore, stanno per essere recapitati ad altrettante persone che avrebbero avuto delle responsabilità per il crollo della struttura, dove sono morti, lo ricordiamo, 8 giovani. Nei prossimi giorni, ha aggiunto Rossini, daremo comunicazione agli indagati in modo che possano presentarsi e avviare una normale dialettica processuale. L'interrogatorio è molto importante, ha spiegato ancora il procuratore capo dell'Aquila, perché queste persone per la prima volta potranno dare le loro spiegazioni. Sarà proprio dopo gli interrogatori, infatti ha detto ancora Rossini, che sarà possibile verificare se sono estranei ai fatti o se dovremo procedere nei loro confronti per le indagini preliminari e il processo. Il procuratore ha spiegato inoltre che la casa dello studente è solo uno dei crolli su cui si indaga, i passi successivi riguarderanno il convitto, l'ospedale, il tribunale e la prefettura. Ed è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi ora veniamo alle polemiche sul servizio mandato in onda da Mattino 5 sul giudice Mesiano, quello in sostanza che ha emesso la sentenza sul lodo Mondadori, condannando la Fininvest a pagare 750 milioni di euro alla CIR di De Benedetti. Le telecamere di Mediaset, lo ricordiamo, hanno pedinato il giudice nel servizio che è stato mandato in onda giovedì. Si dice che il magistrato alcune stranezze, così vengono definite dalla cronista, come per esempio quella di indossare calzini azzurri. Polemiche perché per alcuni c'è stata una forma di intimidazione. Questa mattina la difesa del direttore di Video News, Claudio Bracchino, sentiamolo. Chi mangia fa molliche, dicevano i vecchi giornalisti, vuol dire che fra i tanti servizi realizzati da una testata ci si concentra solo su quelli un po' più sfortunati. E quello andato in onda giovedì scorso a Mattino 5 sul giudice Mesiano non appartiene certo alle categorie dei capolavori. Di questo mi assumo come direttore tutte le responsabilità. Sul merito di un singolo servizio si può discutere all'infinito, fa parte della libertà di critica, come fa parte della libertà di stampa la possibilità di criticare un magistrato. Se alcuni termini usati nel testo hanno offeso Mesiano, io mi scuso con lui, a me le scuse non fanno paura. Per me la sensibilità di una persona viene prima dei ruoli sociali e delle discussioni legittime sul diritto di cronaca e sul diritto alla privacy. Mi impegno dunque a non trasmettere più quelle immagini, cosa però che dovrebbe fare anche chi indignato mi critica, e criticando le ritrasmette in continuazione dalla Sky di Murdoch a Rai 3, trasformando il rimedio in qualcosa di più grave, secondo me, della malattia. Questo dunque è Claudio Brachino di Video News, a cui Mattino 5 fa riferimento, direttore di Video News, ma il bubone è esploso anche all'interno della redazione giornalistica. Ieri il coordinamento dei vari CDR, ossia la rappresentanza sindacale, ha espresso preoccupazione per l'accaduto. Una presa di posizione che però non è stata ritenuta sufficiente da alcuni. Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea dei giornalisti di Video News, mentre comunque rimangono le dimissioni dal CDR di Pietro Suber. Ma sentiamo come Suber commenta le scuse di Brachino al microfono di Alessandra Schepisi. Ne prendo atto, chiaramente insomma i dubbi restano su come è stato fatto e preparato e realizzato il pezzo, insomma. Poi la mia posizione, facendo parte insomma del CDR, è più relativa a una risposta che secondo me era assolutamente necessaria dare da parte del sindacato interno, ma subito e non a distanza di 4-5 giorni. A me quello che mi ha fatto molto impressione, devo dire, è questa sorta, come dire, di lassismo, no? Che c'è stato sicuramente, soprattutto da parte della rappresentanza sindacale. È cambiato il clima Mediaset? Ieri Mentana diceva: un servizio come quello con me non sarebbe mai andato in onda. Più che con me, lui diceva ai miei tempi, probabilmente anche, no, non solo per quanto riguarda i direttori eccetera, ma anche i vertici dell'azienda avevano un atteggiamento, no, diverso. Quindi probabilmente non sarebbe passato, insomma, non soltanto al vaglio dei direttori dei telegiornali, ma anche più in alto. Quindi sì, insomma, se tu, la domanda è che c'è un clima diverso, sì, ma questo mi sembra abbastanza palese. Intanto continuano le manifestazioni di solidarietà al giudice Mesiano, in molti palazzi di giustizia compaiono anche oggi i calzini turchesi, li indossa anche il segretario del PD Franceschini, che invita tutti a farlo. Il PDL invece ironizza: io solo calzini blu, dice il ministro della giustizia Alfano, perché sono una persona noiosa. Veniamo ora a un'altra vicenda politica che sta creando non pochi mal di pancia nel centrodestra. Parliamo della candidatura alla guida del Veneto. La Lega insiste perché vuole un suo candidato, ma sono in molti nel PDL a difendere il governatore uscente Galan, che vuole invece ripresentarsi quindi per il PDL. Oggi forse un chiarimento fra Galan e Berlusconi. In diretta da Venezia, Silva Menetto. Infatti, in attesa di questo chiarimento, vi dico che Venezia è blindata per l'arrivo del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e per l'Emiro del Qatar, che questa sera al Teatro La Fenice festeggeranno l'inaugurazione del rigasificatore al largo di Porto Levante. Quindi dalle 15 l'area attorno a Campo San Fantin, compresi i canali, è assolutamente bloccata nel timore di attentati e proteste, e appunto potrebbe essere l'occasione propizia per il governatore Galan di fare chiarezza una volta per tutte con Berlusconi sul nome del futuro candidato del centrodestra alle regionali di primavera, perché Galan e con lui tutto il PDL regionale non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro per lasciare a un esponente del Carroccio la presidenza del Veneto, anche se la Lega dà questo già per scontato. Il ministro Renato Brunetta ancora questa mattina ha confermato che squadra che vince non si cambia. Galan quindi ha incassato anche il suo appoggio, oltre a quello di Gianfranco Fini, che ha incontrato sabato ad Asolo, e dei vertici regionali e nazionali di AN e dell'UDC. Prima della serata di gala veneziana, i vertici del PDL Veneto sono ben intenzionati a fare pressing sul Presidente del Consiglio e a fargli ricandidare per la quarta volta Giancarlo Galan. A disturbare la festa comunque potrebbero essere anche gli operai del petrolchimico oppure i vongolari, che hanno già annunciato nei giorni scorsi di voler manifestare in questa gustosa occasione per quanto riguarda appunto la ribalta internazionale. Per il momento è tutto e vi restituisco la linea. Grazie Silva Menetto. Potrebbe arrivare oggi nelle mani dei magistrati siciliani il papello originale, ossia, lo ricordiamo, il documento che testimonierebbe una trattativa fra mafia e Stato negli anni 90. Nel papello ci sarebbero le richieste che i boss fecero allo Stato per fermare le stragi dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. Ha incontrato questa mattina i giudici di Caltanissetta, Massimo Ciancimino, e dovrebbe avere consegnato l'originale del papello, cioè l'elenco delle richieste della mafia allo Stato per interrompere la stagione delle stragi nel 92. Una fotocopia già in possesso dei magistrati strade di Palermo. Le cui indagini si stringono sui reparti speciali dei carabinieri. Ciancimino Junior ha rilasciato nuove dichiarazioni. La trattativa ebbe inizio subito dopo la strage di Capaci nel 92, ha detto: quando venni contattato dal capitano De Donno che voleva parlare con mio padre Vito Ciancimino, è un dato di fatto. Mio padre, ha aggiunto tramite altri canali, volle sapere se davvero questi due soggetti, i vertici del Rosso, erano accreditati e avevano le coperture tali per poter mantenere questi impegni. A confermare che la trattativa c'era è stato ieri il procuratore generale antimafia Piero Grasso. La trattativa c'è stata, ha detto il procuratore, anzi Cosa Nostra aveva capito di poter ricattare lo Stato. La strage di via D'Amelio potrebbe essere stata motivata per accelerare proprio la trattativa, e nel mirino della mafia c'erano altri omicidi di uomini politici come Calogero Mannino, Martelli, Andreotti e Vizzini. Antonio Di Pietro attacca, Grasso deve fare i nomi, ha dichiarato, di chi ha gestito questa indecente mercificazione dello Stato e della sua dignità. Letizia Carrara, GR24, Il Sole 24 Ore, Caltanissetta. E al papello era dedicato il sondaggio di oggi della trasmissione Bianco o Nero. La trattativa tra lo Stato e la mafia? Per il 78% dei nostri ascoltatori che hanno risposto al sondaggio è un qualcosa che scandalizza. Anche ora che dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso arriva la conferma che una trattativa tra Stato e criminalità organizzata all'epoca delle stragi Falcone e Borsellino ci fu. Era un momento delicato, dice oggi Grasso, 17 anni dopo. Parole che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso in via D'Amelio, respinge nettamente. Sconvolgono un po' le parole di Piero Grasso, proprio perché da un lato sembra quasi giustificare questa trattativa, come se potesse servire a qualche cosa, quando invece io ritengo che, anche se è vero che può aver salvato la vita a dei politici, è stata barattata, allora, secondo me, con la vita di Paolo Borsellino. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24 torna domattina alle 8.30 e per votare basta un clic, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Documentario shock al Festival del Cinema di Roma nella sezione extra, da un'inchiesta giornalistica a un reportage sul traffico di organi nel mondo. Un'inchiesta di un'ora tra India, Nepal, Sudafrica, Sud America, alla ricerca delle ragioni e delle modalità del traffico mondiale di organi. È HOT, Human Organ Traffic, documentario di Roberto Orazzi, scritto con Alessandro Giglioli. Nel film le testimonianze dei donatori, ma anche dei mediatori, dei trafficanti e dei chirurghi che operano a Cottimo. Sanno, ma fingono di non sapere, a volte sono collusi con la malavita. I was helping poor people to get money to buy food. Buy everything because they were very poor. Parlano i poliziotti onesti, i giornalisti e i genitori che hanno visto i loro figli assassinati da chi ne ha espiantato i loro organi, come Paolo Pavesi, brasiliano che ha chiesto l'asilo politico all'Italia, che da anni denuncia i medici che, sostiene, hanno lasciato morire il figlio di 10 anni per espiantare i suoi organi. Io sono minacciato, sono processato e ha vinto tutto. Insisto in dire che hanno ammazzato un sacco di persone per diventare un donatore di organi. Oggi in Brasile non c'è nessuno più di 15 giorni in coma. In Brasile sono 200.000 i bambini che si scomparsi tutti gli anni e nessuno parla niente. Perché? Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di nuovo in diretta con GR24. Nella prima parte abbiamo parlato dei 12 avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente all'Aquila. Poi abbiamo parlato della scossa di terremoto di 3.9 gradi della scala Richter che si è verificata questa mattina nel Piacentino e nel Parmense, ma il sismologo Enzo Boschi in diretta ci ha rassicurato: non c'è da preoccuparsi, non ci sono danni e comunque non si annunciano nuove scosse perché non si tratta di zona sismica. E ancora abbiamo parlato delle polemiche sul servizio di Canale 5 sul giudice Mesiano, perché questa mattina il direttore di Video News Claudio Brachino ha chiesto scusa e ha invitato il magistrato in trasmissione. Ora invece parliamo di Iran. E lo facciamo dopo l'attentato contro i Pasdaran. Nell'attacco, lo ricordiamo, compiuto vicino al confine con il Pakistan, sono rimaste uccise 49 persone, di cui almeno 6 comandanti dei Pasdaran. Teheran ha subito accusato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna di aver sostenuto l'azione di Jundallah, il gruppo separatista sunnita sospettato per l'attentato. E notizia di questa mattina, il capo dei Pasdaran ha detto che dietro appunto questo attacco ci sono Stati Uniti e Israele, che devono essere prese misure di rappresaglia. Diamo il buongiorno ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grande esperto di Iran. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, partiamo subito dalle dichiarazioni del capo dei Pasdaran, che a noi sembrano appunto piuttosto inquietanti. Quanto sono attendibili queste minacce di rappresaglia? direi abbastanza attendibile. Innanzitutto il capo dei Pasdaran si chiama Ali Jafari, fino a 2 settimane fa era il capo di Stato Maggiore di tutte le forze armate ed è stato nominato capo dei Pasdaran 2 settimane fa da Ali Khamenei, dalla guida suprema, che ha fatto altre nomine importanti e preso decisioni piuttosto rilevanti per tutto l'apparato di sicurezza. Innanzitutto i Basiji, cioè le milizie, quelle che avevamo visto attuare la repressione nelle piazze di Teheran dopo le elezioni contestate ad Ahmadinejad, sono diventate parte integrante dei Pasdaran, delle forze di terra di Pasdaran. Poi Ali Jafari è stato appunto nominato capo supremo dei Pasdaran, è stato nominato un nuovo capo dell'intelligence, insomma tutto un rilineamento ai vertici che indica quanto oggi sia decisiva l'ala militare nella vita dell'Iran. Anzi, direi quasi l'ago della bilancia della situazione, perché proprio le dichiarazioni di Jafari ci fanno capire quanto oggi i militari, con l'ascesa al potere di Ahmadinejad, hanno preso piede in Iran. Insomma, Alberto, si colpiscono i Pasdaran perché loro ormai gestiscono veramente il potere anche politico in Iran. Gestiscono il potere militare sicuramente, gestiscono, sono molto influenti, quasi decisivi ormai sul piano politico e sono anche diventati una potenza economica molto rilevante. Ricordiamo che soltanto all'inizio del mese scorso i Pasdaran hanno acquistato tutte le telecom, tutto l'apparato di telecomunicazione iraniano per una cifra di 7 miliardi di dollari. Alberto, senti, questa mattina un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, c'è un ex Pasdaran, Mohsen Sazegara, spero di pronunciare bene il nome, che dice: l'attentato potrebbe essere stato un complotto contro gli ufficiali meno intransigenti. Insomma, in altre parole, una parte dei Pasdaran avrebbe appoggiato l'attacco per colpire i capi più moderati. Ritieni verosimile questa ipotesi? Conosco Sazegara. È stato uno dei fondatori nel 1979 insieme a un altro gruppo di 6 rivoluzionari dei Pasdaran. Andarono a Qom dall'Ayatollah Khomeini e gli proposero appunto l'istituzione di queste guardie della rivoluzione. Però Sazegara sono ormai 15 anni che vive fuori dall'Iran. Può darsi che abbia delle buone informazioni. È possibile che ci possano essere dei complotti, però questo appartiene un po' come sempre alla dietrologia, che è uno degli sport più praticati in Iran e non soltanto in Iran. La verità è che la reazione di Jafari, cioè del capo supremo dei Pasdaran, ci dice quanto sia stato duramente colpito l'apparato e quanto potrebbe essere dura la reazione successiva. Alberto, al volo un'ultimissima domanda. In questo clima di tensione lo sappiamo che oggi pomeriggio riprendono a Vienna l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, i colloqui sul programma nucleare iraniano. In che modo questo attentato potrà influenzare questi colloqui? Cioè, certamente nel clima non disteso di questi negoziati, che peraltro dovrebbero proseguire per almeno 2 o 3 giorni, ci sono già state delle dichiarazioni poco confortanti, cioè gli iraniani dicono che anche se mandassero fuori il loro uranio da arricchire, continuerebbero comunque l'arricchimento dello stesso uranio in casa propria. Quindi già le premesse non sono delle migliori, ma questo negoziato non si poteva pensare che andasse tutto liscio. È un negoziato, credo che sarà lungo, sarà irto di difficoltà e comunque direi decisivo anche per la, in qualche modo forse anche proprio per la sopravvivenza del regime. Ed è notizia di poco fa che il Foreign Office respinge categoricamente, ovviamente, le accuse da parte iraniana che attribuiscono alla Gran Bretagna responsabilità nell'attentato appunto contro i guardiani della rivoluzione, cosa che aveva già fatto Washington per quanto riguarda gli Stati Uniti. Grazie ad Alberto Negri, inviato della Sole 24 Ore ed esperto di Iran, per essere stato con noi. Grazie a voi. Veniamo ora a una vicenda tutta italiana. Carcasse di animali fra i volumi dell'archivio che custodiscono la memoria storica. Succede a Napoli, all'archivio San Lorenzo, una delle 4 sedi dell'archivio storico della città, dove sono conservati documenti sulla storia di Napoli, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. Un edificio abbandonato, fatiscente, con l'ingresso murato e le scale pericolanti, ormai inaccessibili agli studiosi e infestato dagli animali. Ma come si è arrivati a questa situazione? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto all'assessore al decoro e arredo urbano di Napoli, Diego Guida, responsabile degli archivi storici cittadini. Sono assessore da qualche mese solamente qui al Comune di Napoli e dunque ho preso visione e ho preso cognizione dello stato dell'arte solamente da poco prima delle vacanze. E mi rendo conto della situazione che è, direi, critica, quantomeno critica. Uno dei miei primissimi impegni è stato appunto quello di andare a visitare le quattro sedi degli archivi storici comunali. Questa di San Lorenzo, ahimè, è la sede più disagiata, perché le altre tre sedi, a onor del vero, sono in ottimo stato, non solo conservativo per quello che concerne i documenti, ma anche per l'accesso, diciamo così, logistico. Si aspettava di vedere quello che ha visto? Assolutamente no, questo lo devo confessare. Si tratterà di un impegno serio e di un impegno che deve assolutamente concretizzarsi in tempi brevi, perché è veramente una situazione grave. Il problema lì è legato soprattutto all'accesso, non c'è la possibilità di entrare se non, diciamo così, bardati, diciamo così, di tute del metto. Io, assessore, non riesco a capire, per volere di chi è stato murato l'accesso nel 2002? Io non posso che leggerle i documenti, perché ovviamente mi precede questa storia. C'è un intervento risalente all'anno 2002 dove il Comune di Napoli concesse in comodato gratuito la gestione di alcuni di questi locali all'Ordine dei Francescani che è lì vicino. Oggi quei locali che sono in gestione dei Francescani sono perfettamente fruibili e sono in ottimo stato conservativo, tant'è che vengono utilizzate per impegni appunto dei Francescani. Quindi per volere dei frati, mi sembra di capire, è stato murato? C'era necessità che ci fosse una divisione, ovviamente, quindi una demarcazione tra quella che era la gestione comunale e dunque la gestione, diciamo così, privatistica, ecco, dei frati, quindi riterrei di sì. Non doveva comunque essere garantita da parte del Comune l'accessibilità all'archivio di Stato anche da parte degli studiosi? Devo confessarle che non l'ho ritrovato nei documenti cartacei, per cui rimaneva evidentemente questo dubbio dell'accessibilità. In chiusura il calcio, fra poco il sorteggio dei playoff che decideranno le ultime quattro squadre di Sudafrica 2010. Intanto il paese africano si prepara alla scadenza dell'11 giugno, data di inizio dei mondiali. Ci colleghiamo con Dario Ricci, che si trova proprio in Sudafrica, Città del Capo. Sì, buongiorno da Città del Capo, vi parlo proprio dal porto di Cape Town. A poche centinaia di metri da qui c'è quello che è stato il grande assente della Confederation Cup, cioè il Greenpoint Stadium, uno degli stadi che sarà il fiore all'occhiello della Coppa del Mondo 2010 e che però in occasione del torneo dello scorso giugno non era ancora pronto e quindi non ha potuto ospitare alcuna gara. In questo momento non ci sono più le gru intorno allo stadio, i lavori procedono febbrili all'interno per rispettare l'appuntamento dell'11 giugno, così come sono febbrili i lavori in tutto il paese, all'aeroporto internazionale di Cape Town che si sta ampliando per ospitare i tantissimi spettatori attesi, e poi in tutta la città e anche nelle township procedono i lavori per sostituire quelle che sono le baracche che caratterizzano il panorama delle township con nuove case in muratura. Insomma, un Sudafrica che cammina rapido verso l'appuntamento dell'11 giugno, e Cape Town in particolare ha nel mirino il primo grande appuntamento il prossimo 4 dicembre, provando proprio qui si svolgerà il sorteggio della fase finale della Coppa del Mondo 2010, sarà coinvolta anche l'isola di Robben Island, quella che era stata l'isola che aveva ospitato il carcere in cui Nelson Mandela scontò 18 dei 27 anni di reclusione. Ebbene, pensate, proprio a Robben Island i prigionieri riuscirono a dar vita ad una lega calcistica che fu di fatto scuola politica per molti di quelli che oggi sono i protagonisti della vita politica sudafricana, uno su tutti il presidente del Sudafrica, il presidente del Sudafrica Jacob Zuma. Insomma, quello che stiamo vedendo qui da Cape Town è un Sudafrica che marcia spedito e lavora sodo per rispettare l'appuntamento con il mondo fissato all'11 giugno 2010. E per il momento da Città del Capo è tutto. Grazie a Dario Ricci, ed è tutto anche per questa edizione del GR24 curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Il prossimo GR alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.